tuttora noi autonomi siamo tenuti all'oscuro di tutto quello che sta avvenendo e che stanno decidendo sulla pelle di migliaia di lavoratori da loro non rappresentati. Ma io credo che qualche problema lo abbiano a chiudere senza cercare il consenso della stragrande maggioranza dei naviganti e soprattutto piloti e assistenti di volo.